erano tre mesi che ti avevo, ma il ritornello non chiudeva mai. Era un po' come possederti solo a metà. E mentre il vento spolverava via le prime foglie gialle, come se fossero note un po' scollate, un pentagramma abbandonato su una sedia in un bar. Ti provocavo fischiettandoti, mi addormentavo immaginandoti, accarezzata da parole che ti vestivano come una venere di poesia. Stamattina sei piovuta giù come la neve sui comignoli. Non ho potuto fare a meno di scriverti. Il tuo vestito si è allungato un po' e poco dopo era già un gran soirée. Partiva sotto i tuoi capelli e modellandoti un po' i fianchi sventolava sulla luce rosa per lei. Ho ricucito quello spacco per riconsegnarti signorilità. Testa tra le nuvole il tuo dito, l'accessorio che completerà tre mesi di corte sfrenata e...